Radio 24 Reportage. Sampa, la libertà in collina, di Enrico Pagliarini. Il sole di primavera ci accoglie mentre da Rimini saliamo verso Coriano. Siamo sulle colline romagnole. La nostra tappa è San Patrignano, una delle più grandi comunità al mondo per il recupero dei tossicodipendenti. Oggi ci vivono circa 1300 ragazzi e per fare funzionare questo piccolo paese serve di tutto, da chi coltiva la terra per produrre frutta e verdura, chi alleva gli animali per ricavarne carne o latte per i formaggi, chi cucina o fa il pane, il fabbro, il falegname. Insomma, decine sono i laboratori dove si impara un mestiere, come ci racconta Andrea Muccioli. Da una parte è fondamentale che in un percorso educativo di ricostruzione della propria vita, della propria dignità, ma anche degli strumenti con cui si affronterà il proprio futuro, un ragazzo impari a fare qualcosa che possa essere appunto il suo mestiere, che possa amare, che possa alimentare il suo processo di crescita con passione. Per questo a San Patrignano ci sono oltre 60 attività professionali diverse tra cui scegliere, ognuna di queste organizzata ai massimi livelli che quella professione consente di raggiungere. Questo dà sicuramente anche la possibilità a tutti noi in comunità, a cominciare dai ragazzi, di in parte essere autosufficienti economicamente. Questo ovviamente, essendo una scuola di vita San Patrignano e non essendo un'azienda che produce utili, questo è possibile solamente del 50% del nostro fabbisogno finanziario. Il restante 50% arriva da donazioni di privati, da aziende, da fondazioni, da enti filantropici, eccetera. Mai dalle famiglie, perché le famiglie non pagano San Patrignano, come non pagano i ragazzi, come non accettiamo rette degli enti pubblici, perché vogliamo essere un'entità totalmente autosufficiente, perché questa autosufficienza, che è una forma di consapevolezza che i ragazzi hanno quando entrano qui, è parte stessa del loro percorso di crescita. Loro sentono che non c'è qualcuno che assistenzialisticamente provvede a loro e al loro mantenimento, ma loro sono i primi che contribuiscono a riempire il piatto in cui mangiano, e questo è parte integrante del loro processo educativo qua. Il metodo SAMPA, come i ragazzi chiamano affettuosamente la comunità, è efficace nel 75% dei casi, un indice molto alto se confrontato con altre comunità in giro per il mondo. Insomma, 3 giovani su 4 si salvano dalla droga e tornano ad una vita normale. Il metodo è studiato da università ed organizzazioni in tutto il mondo, ma a ben guardare la sua efficacia sta proprio nella semplicità e nell'intuizione che è il lavoro a fare rinascere le persone. Mirko vive in comunità da quasi 4 anni e lavora alla norcineria, tra prosciutti, salami, coppe e pancette. Assolutamente no, non sapevo proprio quello che poteva essere un salume, insomma. E qui però mi hanno dato piano piano, mi hanno insegnato tramite comunque delle persone esterne che ci vengono a insegnare e tramite comunque l'esperienza che hanno i ragazzi che già sono qui da un po' di tempo, mi hanno insegnato questo mestiere, mi hanno comunque fatto nascere una passione in me, insomma, con la norcineria, con i salumi. Senti, pensi che questo sarà il tuo mestiere? Spero proprio di sì, perché veramente mi ha aiutato a formarmi come carattere, come personalità, e mi ha dato uno scopo in più nella vita, insomma, comunque mestiere, che fino a ieri io di mestieri ne ho fatti ben pochi, insomma. Negli ultimi 5 anni quasi 800 ragazzi hanno ritrovato il loro posto nella società grazie ai mestieri imparati in comunità. Non tutti però faranno quello che hanno imparato, come Gabriele, da 5 anni a San Patrignano, lavora al centro minori e aiuta i ragazzi a fare la pizza. Questo mi sa che non potrebbe essere il mio lavoro, perché sono degli orari che a me personalmente non piacciono, e poi come lavoro non è quello che fa proprio per me. Ci fermiamo ora nella macelleria. Ogni mese vengono trasformati qua 60 suini e 12 bovini. Alessio Mazzalai è il responsabile. Circa il 60%, 70% che viene consumato all'interno. Il restante viene venduto al dettaglio e trasformato. Quanti ragazzi lavorano all'interno della macelleria, della norcineria? Attualmente siamo 14 ragazzi. Tu sei il responsabile di questa struttura, avevi già esperienza o hai imparato tutto qua? Io a fare il macellaio ho imparato qui. poco sapevo fare, no? Figuriamoci il macellaio, insomma. Questo potrà essere, insomma, il tuo lavoro per il futuro. Già lo è qui all'interno della struttura, insomma, e questo mi riempie molto, insomma. Ora una sosta anche al caseificio per parlare con il responsabile Roberto Bezzi. Beh, adesso noi lavoriamo un tre quarti della produzione, quindi abbiamo 800.000 quintali di latte all'anno lavoriamo, di mucca, di latte vaccino. Di ovino invece lavoriamo sui 200 quintali al mese di latte, poi chiaramente la pecora ha dei periodi di asciutta, varia secondo la stagione. E della capra in questo momento stiamo lavorando 10 quintali a settimana. Io sono qua da 30 anni. Quindi per molti ragazzi questo sarà magari il lavoro all'esterno, per te invece è stata la calamita che ti ha trattenuto qua. Sì, sì, questa è stata la calamita, prima col vino, prima ho avuto tanti passaggi, quindi dalla cantina alla gestione dei terreni a adesso, è da un paio d'anni nella lavorazione dei formaggi, lavoro con tanti ragazzi che sono stati, li abbiamo inseriti in vari caseifici, quindi è un lavoro che è richiestissimo, con la passione si salvano la vita. Un altro dei tratti che distingue le attività di San Patrignano è la, a volte maniacale, ricerca dell'eccellenza. Andrea Muccioli spiega il perché. Perché dei ragazzi giovani che oggi vivono dei problemi di emarginazione, di disagio, non devono essere mai considerati come emarginati, devono essere considerati come persone con grande talento, potenzialità, sensibilità, intelligenza, come sono. E se li si considera così, non ci si può accontentare di fargli fare qualcosina, di riempire un cassetto con delle viti. Bisogna dargli veramente una prospettiva, bisogna considerarli veramente come dei grandi artisti, dei grandi artigiani, dei grandi talenti, e quindi dargli tutta la possibilità di scegliere quello che vogliono diventare nella vita e di imparare a farlo al massimo delle loro possibilità. Nessuno come chi ha toccato il fondo, come chi ha abbruttito se stesso e calpestato la propria dignità, nessuno ha più bisogno di bellezza, ha più bisogno di sentirsi parte di qualcosa di bello, di qualcosa di grande, di qualcosa di buono, di qualcosa di pulito e di qualcosa di eccellente. I ragazzi hanno questo bisogno e chiunque si ponga in un ruolo educativo nei loro confronti dovrebbe avere questa sensibilità, questa motivazione, non accontentarsi di fare qualcosa, ma voler fare quello che ai ragazzi che deve educare serve che lui faccia. Chiudiamo questo breve viaggio nella comunità di San Patrignano con una tappa al centro minori, dove vivono 30 ragazzi che hanno meno di 18 anni. Per loro il lavoro è una parte minima della settimana, devono studiare, fare sport, divertirsi, insomma sono adolescenti, ma il numero crescente di ragazzi giovani che si rivolgono alla comunità merita una riflessione. Oggi l'età di primo consumo delle droghe in genere si è abbassata al di sotto dei 13 anni, quindi parliamo di ragazzini che sempre più frequentemente consumano droga, cercano lo sballo, e quel che è più grave è l'assenza totale di consapevolezza che queste droghe, siano sostanze nocive, rischi la vita, rischi la salute e siano qualcosa che ti allontana dalla realtà. Il punto è, se ci sono tanti ragazzi che sempre più in massa cercano lo sballo e cercano di fuggire dalla realtà, evidentemente è una realtà in cui loro non si sentono bene. C'è una realtà allora da affrontare, che è quella del loro percorso educativo, del loro progetto di vita e di futuro. Noi adulti ci siamo abbastanza presenti, gli diamo dei comportamenti giusti, diamo gli esempi positivi. Molto raramente questo accade. Di fianco alla stanza in cui un ragazzo adolescente consuma la canna c'è molto più spesso che in passato una mamma sballata di psicofarmaci e di coca, o un padre che si è appena sniffato la cocaina prima di andare al lavoro di manager, di medico o di autista. Questo è il vero problema, ed è un problema educativo della nostra generazione e della nostra società. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.